Noi anche oggi, già dalla mattina di ieri, eravamo in sciopero davanti all'Euroingro. Euroingro è il più grande centro di distribuzione di abbigliamento d'Europa. È un capannone enorme all'interno del quale ci sono tutta una serie di pronto moda, di piccoli negozi dove le persone possono venire a comprare all'ingrosso abiti che sono prodotti in questo distretto. Eravamo in sciopero con 5 lavoratori che lavorano in 4 di questi pronto moda e che per anni sono stati costretti a lavorare senza contratto su turni di 12 ore per 7 giorni la settimana. Abbiamo iniziato appunto questo sciopero ieri mattina e dopo un'ora dall'inizio dei picchetti siamo stati, diciamo, un gruppo di una trentina di titolari di queste aziende interne alla Euroingro, titolari, responsabili, caporali, ha tentato di aggredire il picchetto, di distruggere i gazebi del presidio sindacale. Siamo riusciti a respingere questa aggressione, lo sciopero è poi continuato fino alla chiusura del centro commerciale ieri sera e stamani siamo sempre qua davanti. Ovviamente quello che è successo è gravissimo e trova origine in un contesto in cui in questa città negli ultimi anni i lavoratori, le lavoratrici che hanno alzato la testa si sono ribellati a queste condizioni di semischiavitù, si sono visti più e più volte aggredire a sprangate di ferro, a mazze da baseball, a tirapugni, durante gli scioperi, durante i picchetti sindacali, e per queste aggressioni non è mai successo niente. A livello istituzionale negli scorsi anni purtroppo si è sempre mosso troppo poco da questo punto di vista. Noi crediamo che questo sia il motivo per cui una parte di imprenditoria crede di poter risolvere le rivendicazioni dei lavoratori, di poter lavorare 8 ore al giorno in questo modo. Ovviamente questo non è possibile, come non è stato possibile anche in passato. Appunto, lo sciopero è andato avanti, sta continuando ad andare avanti, questo tipo di tentativi non ha mai prodotto una paura o dei passi indietro da parte dei lavoratori, anzi siamo in un distretto in cui la sindacalizzazione e la lotta per i diritti sta crescendo a macchia d'olio. Torno un attimo su una cosa che hai detto che riguarda le istituzioni, perché insomma aggressioni sono una cosa grave. Dicevi le istituzioni non hanno mai fatto abbastanza? Sì, diciamo che noi nei primi anni in cui è iniziato questo fenomeno di sindacalizzazione e di ribellione dei lavoratori nel distretto tra Firenze e Prato abbiamo visto denunce contro aggressioni che i lavoratori subivano agli scioperi venire archiviate, finire nei cassetti e restare lì nel dimenticatoio. Abbiamo sentito esponenti istituzionali mettere in dubbio la voce dei lavoratori che raccontavano queste condizioni di schiavitù che subivano. Siamo, diciamo, contenti che nell'ultimo anno, a partire dall'aggressione che abbiamo subito un anno fa allo sciopero asteano, che poi ha visto 5.000 persone manifestare appunto nelle strade di questo piccolo paese nella provincia di Prato, e le cose sono iniziate a cambiare. Un mese e mezzo fa venivamo aggrediti fuori dall'Alba di Montemurlo, dove siamo ancora in sciopero. Si parla di filiere diciamo anche di un certo livello che coinvolgono dei brand importanti, però appunto sicuramente finora da parte istituzionale è stato fatto poco. Un tema che noi crediamo continui a essere critico è questo tentativo di etnicizzazione che viene costantemente fatto in questi casi. Molte delle testate mediatiche, molte delle dichiarazioni hanno parlato di aggressione storici cinesi contro operai pakistani. Noi crediamo che questo sia un modo di invisibilizzare, diciamo, non tenere in considerazione il fatto che la maggior parte degli operai e delle operaie che sono costrette a subire queste condizioni di sfruttamento nel distretto sono operai cinesi. Non è una questione etnica, non è in atto uno scontro tra diverse nazionalità, c'è una linea chiara che divide chi è titolare di queste aziende che per anni ha fatto profitto sulla pelle degli operai e chi invece appunto è stato costretto in queste condizioni, e questa linea non ha niente a che fare con il paese da cui si proviene, ma ha tutto a che fare con il credere di essere titolari di un diritto di continuare a sfruttare i lavoratori, e dall'altra parte invece l'essere titolari di un diritto a ribellarsi a queste condizioni. situazioni. Non è che il tentativo di etnicizzare quello che accade serve anche a coprire un po' poi lo sfruttamento anche da parte di grandi griff, come hai detto prima? Assolutamente, assolutamente. Qua a Prato finalmente, diciamo, si sta riuscendo a incrinare questa narrazione che noi per anni abbiamo dovuto sentire, abbiamo dovuto leggere, di due distretti paralleli, distretto italiano dell'eccellenza, il distretto cinese dell'illegalità. L'abbiamo sempre detto, e ora appunto a delle vertenze come quella che stanno portando avanti i lavoratori dell'Alba di Montemurlo lo confermano. Non ci sono distretti paralleli, c'è un unico territorio che è fatto di filiere, è fatto di filiere dove tutti i passaggi delle lavorazioni sono subappaltati in una giungla opaca che ha l'unico obiettivo di rendere difficile risalire queste filiere e di fare il maggior profitto possibile lungo queste filiere sulla pelle dei lavoratori. Quindi dei tentativi di descrivere questo tipo di aziende in questo modo sono assolutamente da respingere. Euroingro è un colosso economico di questa città. Queste sono aziende italiane, sono aziende del Made in Italy che lavorano in questo territorio, che producono in questo territorio e che però hanno creduto per troppi anni che questo territorio fosse una zona economica speciale dove le condizioni di lavoro erano normali, erano turni di 12 ore al giorno per 7 giorni, lavoro nero, assenza dei diritti più basilari. La sindacalizzazione che sta emergendo in questi anni sta affermando che non è così. Prato non è una zona economica speciale, Prato è un territorio dove si pretende che i diritti sul lavoro vengano rispettati, e lo si fa con gli scioperi, lo si fa con i picchetti, e lo si continuerà a fare finché appunto le condizioni normali di lavoro anche in questo territorio non saranno quelle giuste.